Siamo bellissimi, bellissimi. Posso partire con darvi una bella notizia? È nata stanotte Ellie Sela Strippoli. Vi faccio vedere la foto. Non è meravigliosa? È nata alle 2:54, pesa 3 kg 385 grammi, è lunga 51 centimetri, poi c'è una circonferenza di 33,5 centimetri, che non so che circonferenza è, immagino il capo, giusto? Il cranio. Questo è Fabio, Fabio è proprio così puntiglioso, così preciso, ha detto tutto, siamo così felici. Se ci state seguendo dall'ospedale, la chiesa è gioiosa di questo dono meraviglioso che il Signore ha dato a voi come famiglia, ma anche a noi come comunità. È bellissimo. Oh, e questo si abbina così tanto al messaggio che porto questa mattina, perché il mio messaggio, vorrei ricordarlo, sarà il proseguo di quanto ci siamo detti la scorsa settimana. E la scorsa settimana abbiamo parlato proprio dell'importanza dell'evangelizzazione, di annunciare Cristo a chi non conosce ancora Cristo. Perché sapete qual è la cosa più importante della tua vita e della mia vita? La nostra cosa più importante è aver ottenuto la salvezza per grazia in Cristo Gesù. Aver riconosciuto che non per i nostri meriti, ma per il fatto che Lui è morto su quella croce portando i nostri peccati, ed è grazie a Lui che abbiamo potuto ottenere una via che prima non c'era. Gesù dice, afferma di se stesso: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, nessuno viene, aiutatemi, nessuno viene se non per mezzo di me. Lui è l'unica via, Lui è l'unica strada, è Lui che ha inaugurato una via che prima non c'era, che non era possibile intraprendere perché non c'era, e Lui l'ha inaugurata per noi, morendo su quella croce, offrendo il sacrificio perfetto per i nostri peccati e purificandosi un popolo che ora eredita la vita eterna. Questa è la cosa più importante della tua vita, che tu hai la certezza della vita eterna in Cristo Gesù, che per l'eternità sei salvato. E alla morte c'è un bivio, e non parlerò di paradiso e inferno, però voglio parlarti della bellezza di essere salvati per grazia, per l'eternità. E l'altra cosa importantissima per la tua vita e per la mia vita è godere di questa relazione con Cristo Gesù, una relazione quotidiana. Amen. Non è la cosa, è la relazione più importante. Io ho da 2 anni una relazione meravigliosa con una figlia che ovviamente prima non conoscevo perché è nata 2 anni fa, ed è una relazione meravigliosa, ma non c'è relazione più speciale, più importante della mia vita, prima ancora di mia moglie, prima ancora di mia figlia, prima ancora del miglior mio amico. Cristo Gesù è la relazione più importante, e quando sei solo sai che non sei solo perché Cristo è con te e Lui c'è sempre. E Lui non delude mai. Amen. Ma non voglio parlare della relazione con Gesù, anche se è parte del messaggio, perché la scorsa settimana abbiamo considerato la dura verità, è importante dare questo monito, che Dio non ha nipoti. Questo è stato il titolo del messaggio della scorsa settimana ed è il titolo del messaggio anche per questa settimana. E Dio non ha nipoti 2 oggi, ok? Il proseguo, e forse ci sarà un 3, un 4, si può parlare così tanto del fatto che Dio non ha nipoti. È abbastanza comprensibile come frase ed è molto biblica, perché abbiamo letto insieme quanto in Giovanni 1, Vangelo di Giovanni, quindi Giovanni da subito proprio lo mette davanti a tutti: egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio coloro che hanno ricevuto Cristo Gesù. Quindi tu hai il diritto di diventare figlio di Dio, cioè di ereditare la vita eterna, di avere una relazione con Cristo, quello che ho appena elencato, in virtù del fatto che ricevi Cristo, credi in Lui, ti affidi a Lui, ti ravvedi dei tuoi peccati e sai che Lui è il mezzo di salvezza, e così hai una nuova identità. La tua nuova identità è non Mirko Ronchi, figlio di Pinuccio Ronchi e Sofia De Vries, è il caso mio, ma Mirko Ronchi, anche figlio, perché rimango sempre figlio di papà e mamma, ma figlio del Dio Altissimo. Io sono figlio del Dio Altissimo, tu sei figlio del Dio Altissimo, tu sei figlia del Dio Altissimo, è l'identità più gloriosa che puoi attribuirti e che Dio ti attribuisce perché hai ricevuto Cristo Gesù, ma ci sono solo figli, non ci sono nipoti. Che cosa si intende dire con questo? Che per quanto io volessi che mia figlia sia certamente figlia di Dio, io questa certezza non la posso avere. Non la posso trasmettere, nel senso che non posso dare a lei questa eredità certa, perché non si ottiene per eredità, non è una casa che lasci in eredità, non è una collanina che lasci in eredità, e a Ioanna gli lascerò tutto quello che avrò, non ho molto, però non puoi lasciare la salvezza, perché la salvezza la si ottiene per una libera scelta, ed è in questo che Dio manifesta il suo amore, non costringe nessuno. È una cosa meravigliosa, perché ci parla dell'amore. L'amore è libero, deve essere una libera scelta, anche se ci rattristisce moltissimo per tutte le persone che conosciamo e che non scelgono Cristo, non accettano Cristo, non prendono l'opportunità di diventare figli di Dio, del Dio Altissimo, non hanno l'opportunità di afferrare questa identità meravigliosa che noi abbiamo. E io vorrei costringere mia figlia ad essere figlia di Dio. Se si potesse fare, lo farei, ma non lo posso fare. Dio non ha nipoti. E questo può portarci in due strade diverse: o alla superficialità più totale, dire vabbè, allora se la vedrà lei è il mese di marzo, cosa che credo che nessun genitore avrebbe come naturale atteggiamento, come risultato di questa affermazione che Dio non ha nipoti. Non credo che nessuno di noi dice vabbè, allora vediamo, speriamo che un giorno sceglierà per Cristo. Credo che nessuno vivrebbe questa superficialità, e se siete qui e mi state ascoltando in questo momento è proprio perché non volete vivere questa superficialità. Dall'altra parte non possiamo neanche entrare in ansia e in preoccupazione. Non dimenticherò mai quella volta che sono andato in visita ad un ragazzo, un mio coetaneo, che stava cominciando a fare dei passi di fede, e la mamma ci teneva tantissimo che suo figlio scegliesse per Cristo, e mi ha invitato a rimanere a pranzo, e a pranzo, prima di pranzo, ha detto prego io. Questa sorella ci ha preso per mano, c'ero io, suo figlio e lei. E la sua preghiera, non me la ricordo testuali parole, però andava sulla falsa riga così: Signore, tu conosci questo mio figlio, tu conosci quanto è testa dura, aprigli la testa prima che gliela apro io, fa che si converta a te, che scelga le tue vie, che ti ami, che legga la Bibbia, che preghi. E più andava avanti e più il figlio stava lì che sbuffava, che era impaziente che questa preghiera finisse. Vedete, noi possiamo fare le preghiere più ferventi e possiamo desiderare la cosa migliore per i nostri figli, che loro scelgano il Signore, ma non è questo che li converte, non è questo che li porta a salvezza. E quindi la scorsa volta abbiamo parlato del fatto che ci sono cose che non possiamo fare, però ci sono cose che possiamo fare, e oggi andremo avanti nel esplorare quali sono le possibilità che noi come genitori in primis, ma questo vale anche per i nonni perché hanno un ruolo straordinario, e vale anche per te, sia che tu non abbia figli o che in un qualche modo non abbia parenti da portare a salvezza. Questo messaggio vale per tutti, perché ci dà le chiavi per condividere Cristo e condividere la bellezza della relazione con Cristo e l'importanza di ottenere la salvezza per grazia. E allora dove andiamo? Andiamo nel Vecchio Testamento, facciamo proprio un passo indietro allo Shema ebraico, che è questa porzione di Bibbia importantissima per il popolo di Israele, ma importante anche per il popolo cristiano, perché Gesù riprende queste parole. E nello Shema, che significa ascoltare, ebraico, in Deuteronomio al capitolo 6, noi leggiamo queste parole, versetto 4, c'è scritto: ascolta Israele, ascolta popolo di Dio. Il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Non perderti. non essere smarrito, non andare a ricorrere ad altri dei, a falsi dei, all'idolatria. E questo vale ancora per noi oggi. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio. Una cosa meravigliosa che Dio dà come comandamento è amarlo. Non è una cosa meravigliosa, lui dice amami. Questo è quello che ti comando. E Gesù ricalca questo aspetto e dice il più grande, il più importante dei comandamenti che può riassumere totalmente il Vecchio Testamento, cioè tutte le profezie e tutti i libri, tutta la Torah. Gesù dice si può esprimere in un solo comandamento, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E poi aggiunge questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Dio da subito istruisce il suo popolo a tramandare un comandamento fondamentale, un appello, un monito fondamentale: amare Dio, essere in relazione con il proprio creatore. E quindi dice inculca queste cose ai tuoi figli, inculcale, non essere passivo, inculca questi principi, questi comandamenti, e questo è quello che noi siamo chiamati a fare. E quindi io vorrei parlare ancora di più oggi, stamattina, di tanti aspetti pratici che possiamo prendere come mezzo per fare in modo che i nostri figli abbiano tutte le possibilità per fare la scelta migliore della loro vita. Non ti do la garanzia che i tuoi figli si convertiranno perché tu seguirai queste istruzioni che oggi ti do, però quello che ti posso garantire è che nel fare questo, e quindi allineandoti alla volontà di Dio per te, genitore, ti darai la possibilità più alta, maggiore, che ti puoi dare affinché i tuoi figli facciano la scelta più importante della loro vita. Perché fatemelo dire, questa è la scelta più importante della vita dei nostri figli. Quanto ci preoccupiamo che abbiano delle scarpe nuove? E quanto tempo dedichiamo affinché scelgano delle scarpe che gli piacciono? Quanto tempo dedichiamo per fare quell'ora in più di lavoro affinché possano stare bene? Oppure quanti sforzi facciamo affinché loro possano sviluppare i loro talenti? E li scorazziamo, facciamo da tassisti portandoli ora a piano, ora a danza, ora in palestra, ora a piscina. Facciamo ogni sforzo perché vogliamo il meglio dei nostri figli. A volte però siamo ciechi al fatto che c'è un'importante responsabilità, la più importante responsabilità che abbiamo come genitore: evangelizzare e discepolare chi Dio ci ha affidato. Questo è il compito. Gesù ha detto andate e fate discepoli. E da dove possiamo partire nel fare discepoli? Proprio dalle nostre case, proprio dalle nostre famiglie. E come lo facciamo? Inculcando. Quando? Vediamo insieme il quando, perché questi versi ci parlano del quando. Ci parlano di quando ne stiamo seduti in casa nostra, quando siamo per via, quando ci corichiamo e quando ci alziamo. Quindi il primo punto è, se ti stai domandando quando devo fare tutto questo, dove trovo il tempo per fare tutto questo, beh, la risposta in realtà e ti può alleggerire, ti può rasserenare, perché non devi crearti delle parentesi particolari dove devi invitare il gruppo lode in casa tua a vivere un momento di adorazione e poi deve esserci il pastore che viene in casa, apre questa parentesi quotidiana per predicare l'Evangelo in un tempo delineato di un'ora che va da quest'ora a quest'ora. No, non è una parentesi, è vivere la quotidianità. Quando sei seduto in casa, quando è che siamo seduti in casa? Mi è venuto subito in mente il fatto che quando noi pranzavamo in casa dei miei genitori c'era una regola fondamentale da seguire: la televisione andava spenta. Non esisteva A noi non interessava niente dei notiziari, però quando succedeva una sciagura, pur di avere quella televisione accesa, facevamo leva ai nostri genitori. Ma come? Non ti interessa che è scoppiata la terza guerra mondiale? Lasciamo accesa la televisione, ascoltiamo questa notizia. Perché? Perché la televisione per i bambini è qualcosa di estremamente attraente. Però che cosa fa la televisione? Parla. E se parla la televisione, non parli tu e non parliamo noi. Te ne starai seduto e inculcherai. Quello è un ottimo momento, mentre si mangia. E si fanno delle domande che riguardano la giornata. Vi voglio dare strumenti molto pratici, ok? Potete non essere d'accordo con me, venire a lamentarvi dopo con me perché ho creato divisione in casa, fazioni opposte di chi ama la televisione e chi odia la televisione, però sono strumenti molto pratici e se il fine di questo messaggio deve essere lasciarvi riflettere su queste cose, anche litigando in casa, beh, io sarò contento, non per i vostri litigi, ma per il fatto che ci stiamo dando più occasione di inculcare quello che possono essere pensieri e parole che porteranno i nostri figli a ravvedimento e a salvezza. Quindi nella quotidianità, nella routine quotidiana, ritagliandoci del tempo quando siamo seduti, quando siamo per via, no? In Deuteronomio all'epoca non c'erano le macchine. Si camminava, si facevano tanti chilometri a piedi. Allora qui dice, per via inculcherai. Ora non camminiamo, ma quanti genitori mi danno ragione che oggi sono i nuovi tassisti, i tassisti moderni più sottopagati della storia. E scorazziamo i nostri figli da una parte all'altra e stiamo non minuti, ore in macchina con i nostri figli. E quella è un'occasione che il Signore ci dà. Per fare domande, per interessarci. È capitato di rado, lo faceva piuttosto mio padre, però a volte io mi ritrovavo ad accompagnare i miei nipoti, Aurora, Chloe, Elijah, a prenderli da scuola. Ed era un piccolo tempo che mi ritagliavo come zio ed era un tempo prezioso perché potevo fare delle domande e potevo avere delle risposte e loro facevano delle domande ed è capitato a volte che abbiamo anche pregato insieme. Sai che in macchina per via mentre guidi puoi pregare? Lo puoi fare. Puoi pregare per tuo figlio che è preoccupato per il compito in classe che farà quella mattina. E allora in macchina o per strada puoi fermarti con tuo figlio e brevemente dire, sai cosa? Abbiamo il Signore dalla nostra parte. Non hai motivo di temere, figlio mio, figlia mia. Facciamo una preghiera. Questo è vivere il cristianesimo esattamente come Dio vorrebbe che noi lo vivessimo, non come delle parentesi, non come una religiosità, non come un luogo nel quale riunirci una volta a settimana per un'ora, un'ora e mezza. No, questo non è il piano che Dio ha per noi. Dio vuole che noi viviamo Lui costantemente, mattina, pomeriggio, sera e notte, sempre. Per questo dice quando ti coricherai e quando ti alzerai, sempre. E se vivi un Dio che è sporadico nella tua vita, preoccupati, perché è quello che stai inculcando ai tuoi figli. E i tuoi figli apprenderanno che possono rivolgersi a un Dio che è sporadico, che deve intervenire quando ci sono le sciagure più grandi. E bisogna chiamare il pastore perché è successo qualcosa di terribile. E allora in quel momento si chiede l'aiuto a Dio. No, ogni giorno, ogni minuto della giornata, per ogni cosa. E quindi quando? Nella quotidianità. Punto 2, attraverso ogni circostanza. Approfitta delle circostanze. Ogni circostanza, belle circostanze, brutte circostanze. Ogni circostanza è un'occasione per crescere. Vedete, Gesù si è portato appresso questi 12 discepoli e non ha fatto con loro una classe domenicale e neanche un incontro quotidiano di un'ora, un'ora e mezza, come sono i nostri percorsi di insegnamento. No, lui è stato 24 ore su 24 con i suoi discepoli. E se oggi noi nei Vangeli leggiamo che Gesù si appartava in luoghi nascosti prima ancora che sorgesse il sole, è perché c'erano dei discepoli che osservavano questo Gesù che si svegliava prima di tutti gli altri per appartarsi e stare con Dio. Dio li portava presso con sé proprio per muoversi e far vivere a loro le esperienze della vita in una proiezione completamente diversa, con una lettura completamente diversa. Ed è quello che possiamo fare con le nostre famiglie. Ogni famiglia vive un viaggio unico. La tua famiglia ha un viaggio unico che sta vivendo. Non è uguale al mio. E la mia famiglia sta vivendo un viaggio unico che non è uguale al tuo. E nei viaggi che noi stiamo vivendo possiamo sperimentare l'autentica presenza di Dio nelle nostre vite in ogni stagione e in ogni circostanza. Quanti possono coraggiosamente alzare la loro mano dicendo: sono state le circostanze più difficili a volte quelle che ci hanno più strette a Dio come famiglia? Posso vedere qualcuno che coraggiosamente può dire questo? Vedete, guardate attorno, tanti di voi, la maggioranza di voi. E allora ben vengano anche le circostanze avverse. Non che le richiamiamo, le vogliamo, però quando avvengono non entriamo nel panico. Guardiamo, ricordiamoci di queste mani che si sono alzate questa mattina e pensiamo: questa è l'occasione ideale per vivere la bellezza della fede, per vivere il fatto che la nostra casa è fondata sulla roccia. Allora questo sarà il tempo dove la nostra famiglia imparerà meglio a pregare, imparerà meglio a citare versi della parola di Dio, a dichiarare vittoria in fede. Questo sarà il tempo propizio per crescere, per fare un salto di qualità nella fede, in unità. E quindi non disperare, se sei in circostanze avverse, ogni circostanza contribuisce a quel momento ideale per crescere e per permettere ai tuoi figli un giorno di scegliere con piena convinzione di seguire, servire e arrendersi a Cristo per il resto della propria vita. Ho aggiunto anche nella quotidianità, attraverso ogni circostanza, ma anche nei momenti, aiutami regia, se no lo devo leggere negli appunti, nei momenti imperfetti. Non dobbiamo essere brillanti e perfetti come genitori. Sapete perché? Molto semplice. Perché non lo siamo. Non c'è un genitore perfetto. E sebbene io ho la tendenza di raccontare belle storie che riguardano i miei genitori e la nostra famiglia e come siamo cresciuti, c'era tanta imperfezione. C'erano litigi. C'erano incomprensioni. E va bene, perché siamo imperfetti. Ciò che importa per i nostri figli è capire come navighiamo anche nell'imperfezione. E va bene che ci irritiamo, perdiamo il controllo, perdiamo le staffe, alziamo la voce. Ma quella diventa un'occasione meravigliosa per inculcare i principi di Dio. E quindi tornare al nostro figlio, alla nostra figlia che ci ha fatto perdere la pazienza, per dire: perdonami se ho alzato la voce, perdonami se mi sono irritato oltremodo, perdonami se mi sono espresso male, però capisci la mia agitazione, capisci il mio nervosismo, è successo qualcosa che non va bene e volevo che tu comprendessi che fosse sbagliata. E allora chiedere perdono ai nostri figli, wow, che bagno di umiltà! E che opportunità per loro di comprendere che anche loro possono sbagliare, che va bene che non devono essere figli perfetti, perché non lo saranno, e va bene che loro sbagliano, e va bene che loro perdono il controllo. Ci sarà un'opportunità di grazia e ci sarà l'opportunità di perdonarsi e unirsi ancora di più come famiglia. Quindi nella quotidianità, attraverso ogni circostanza e nei momenti imperfetti, se ti stai chiedendo quando, questa è la mia risposta al quando. Ora vorrei vedere con voi il come, però. E qui ho 5 punti. Avete la pazienza di ascoltarmi ancora per 5 punti? Vi sta piacendo quello che state ascoltando? È molto pratico e voglio essere molto pratico, anche perché la parola di Dio non è solo teologia e teoria, è molto pratico. E come inculchiamo l'amore per Dio? Questa è la domanda. Come inculchiamo ai nostri figli di amare il Signore con tutto il loro cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza? Come possiamo fare? Beh, nel verso stesso c'è scritto un modo. Dice inculcandone, parlando, inculcate questo, parlandone. Quindi ho fatto una sottolineatura particolare domenica scorsa a tutti gli uomini, a tutti i padri, parlare. Perché tendenzialmente ci chiudiamo, non parliamo, non esprimiamo, e i nostri figli invece hanno bisogno di sentirci parlare, pronunciare con le nostre parole il nostro pensiero che riguarda Dio, che riguarda le circostanze e che riguarda l'aspettativa che abbiamo per i nostri figli nel seguire la volontà di Dio. Parla, non lasciare che sia solo tua moglie a parlare. E se sei una coppia anomala dove magari è più tuo marito che parla, questo vale al contrario, va bene. Parliamo, entrambi i genitori devono avere un ruolo di educazione nei propri figli, nell'inculcare i principi di Dio, e tutto questo passa attraverso la parola, ma non solo la parola. Secondo punto, attraverso l'esempio. E su questo abbiamo particolarmente riflettuto domenica scorsa, dove a conclusione del messaggio, non so se vi ricordate, piuttosto che invitare i bambini per pregare per le famiglie, cosa che faremo oggi, ho detto oggi stiamo su un altro piano, oggi si parte da noi, perché tutto parte da noi, tutto parte dall'esempio. Sapete, qualche mese fa mia moglie ha comprato uno spazzolino, di quelli piccoli, per mia figlia di 2 anni. Quando l'ho visto ho detto, ma noi come insegneremo a questa piccola mocciosa a fare la cosa più noiosa e scomoda che si possa mai fare, che è lavare i denti? Come si fa questa cosa? Come si dice questa cosa? Come? Per poi sorprendermi del fatto che lei stessa volesse lavarsi i denti perché vedeva me e sua mamma farlo. Era per lei la cosa più affascinante e straordinaria del mondo. Vedere papà con la schiuma del dentifricio in bocca che muoveva questa cosa. E ogni volta che lo faccio, e quindi ora si lava i denti 6 volte al giorno, 3 volte io e 3 volte Giorgia, ogni volta che noi laviamo i denti, lei lo vuole fare. Non abbiamo dovuto dirgli niente, non abbiamo dovuto insegnargli niente. Sì, qualche indicazione Giorgia l'ha data, ma è per imitazione che Ioanna si sta lavando i denti. E posso dirti una cosa? La maggior parte delle scelte che i tuoi figli faranno saranno per imitazione. Ed è per questo che abbiamo dato particolare accento domenica scorsa al fatto che non solo le parole, ma il cuore, perché Gesù dice che dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Quindi di cosa abbonda il tuo cuore? Perché se il tuo cuore abbonda, perdonatemi il consueto abbinamento all'esempio calcistico, se il tuo cuore abbonda per l'Inter, per Milan e per la Juve, non ti sorprendere che tuo figlio tiferà la tua squadra del cuore. Non glielo dovrai insegnare, non glielo dovrai imporre. Sarà qualcosa che inculcherai. Questo termine meraviglioso che significa che penetra un insegnamento. Penetrerà nei loro cuori semplicemente per l'esempio che dai, per la passione. E allora parti da te, perché se hai passione per Dio, inevitabilmente i tuoi figli avranno passione per Dio. Quindi tutto parte e comincia da noi. Terzo aspetto, magnificando Dio. Questa è una parola che ho voluto proprio lasciare così, perché non tutti la comprendono. Ma magnificare significa fare grande. Se vuoi inculcare l'amore per Dio, fai grande Dio. E attenzione, perché questo termine significa proprio fare grande. Nel testo biblico puoi trovarlo tradotto in diversi modi: esaltare, glorificare o magnificare. Però magnificare è quello più corretto, perché fa riferimento proprio all'etimologia di questa parola, fa proprio riferimento al rendere grande. E come rendiamo grande le cose? Beh, un esempio bellissimo che ho letto riguarda il microscopio e il telescopio. Il microscopio rende grande cose che sono piccole. Il telescopio, invece, rende visibile e rende più chiara la grandezza di oggetti che sono già molto grandi. Noi non siamo chiamati a fare da microscopio per Dio. Non dobbiamo inventarci nulla. Non è che noi facciamo Dio grande perché Lui è piccolo e noi lo dobbiamo rendere un po' migliore di quello che è. Blasfemia più grande non ce n'è. Dio è grande, è meraviglioso, Lui è buono, è amorevole, in Lui c'è abbondanza di ogni bellezza, di ogni buon dono viene da Lui. Però noi dobbiamo magnificare, noi dobbiamo rendere visibile questa grandezza ai nostri figli, perché se i nostri figli hanno una concezione di un Dio che ci costringe a stare seduti per mezz'ora ad ascoltare un pastore noioso che parla ogni domenica, beh, probabilmente non vorranno seguire il Signore. Ma se tu in un qualche modo salverai questo mio messaggio e questa pessima figura che sto facendo con i tuoi figli, riscattandomi e riprendendo questo messaggio, dicendo ai tuoi figli, sai, forse il pastore non si è espresso molto bene, non era molto avvincente in quello che ha detto, ma ha detto delle cose preziose e sono meravigliose perché il nostro Dio è meraviglioso. Parliamo della salvezza, dell'eternità. Sai che Dio sta preparando nuovi cieli e nuova terra, una nuova dimora per noi perfetta, dove non ci sarà guerra, dove non ci sarà malattia, dove non ci sarà sofferenza, e che noi abbiamo la possibilità di afferrare questa eredità. Entusiasma i tuoi figli, magnifica Dio, rendilo grande in casa, descrivi i suoi attributi meravigliosi affinché i tuoi figli si possano appassionare della cosa più bella che esista, che è il nostro Dio meraviglioso. In Deuteronomio 32 Mosè canta un canto meraviglioso. Ve lo voglio leggere. Leggerò la prima parte di questo canto che Mosè canta. E dice, porgete orecchio, o cieli, e io parlerò. E ascolti la terra le parole della mia bocca. Si spanda il mio insegnamento come la pioggia. Stilli la mia parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura e come un acquazzone sopra l'erba, poiché io proclamerò il nome del Signore. Magnificate il nostro Dio. Vedete, ora lo fa Lui. Dopo aver fatto questo appello al popolo, mostra come. Egli è la rocca. L'opera sua è perfetta. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto. E poi il canto va avanti ed è meraviglioso, vi invito a leggerlo. Però vedete Mosè fa appello a magnificare Dio e poi ci mostra come farlo, elencando gli attributi di Dio. Elenca le cose meravigliose di Dio. Annuncia ai tuoi figli le testimonianze di guarigione. Annuncia ai tuoi figli le soluzioni che Dio porta. Non limitarti. Quanto errore facciamo noi credenti nel chiedere preghiera, fare richiesta di preghiera, metterci in intercessione e preghiera, e poi quando il Signore risponde, tutto tace. Oh no, quella è la parte più bella, quella è la parte più importante, quella è la parte che dovrebbe riempire la nostra bocca di più della preghiera, e per giorni interi dobbiamo tornare a ripeterci: grazie Signore perché Tu hai ascoltato la preghiera e perché Tu sei intervenuto, grazie perché hai creato una strada, grazie perché papà adesso ha un lavoro, perché Tu hai provveduto a questo, hai ascoltato le nostre preghiere, hai provveduto alla nostra famiglia, grazie perché sei meraviglioso, Tu crei la via, grazie perché hai guarito mamma, grazie perché hai guarito la piccola Ioanna, grazie padre per quello che tu fai. Capite? Magnificare ci permette di far innamorare i nostri figli di un Dio che è difficile non innamorarsi se lo vedi per quello che è. Il problema è che dobbiamo mettere il telescopio, e questo è il ruolo che noi abbiamo come genitori, mettere il telescopio in casa. Non per guardare, mettetelo pure per guardare le stelle, perché quella è una bella occasione anche per dire ai tuoi figli: vedete questa bella stella? L'ha piazzata Dio lì. Qualche sera fa avevo in braccio Ioanna, la stavo per mettere a dormire, gli ho fatto osservare che c'erano le nuvole. Ho detto: Ioanna, chi è che ha creato le nuvole? E mia figlia mi ha guardato e ha detto: Opa, che significa nonno, perché chiama il nonno così. Perché per chi sa, no? Mio padre costruisce tutto, no? Fa tutto. Allora anche in casa, dove ti giri e ti volti, chi è che ha fatto questo? Opa. Chi è che ha fatto quest'altro? Opa. Questo che... Allora giustamente la bambina, chi è che ha fatto le nuvole? E opa, le avrà fatte lui. Va da sé. E allora ho riso. E poi ho detto: no, c'è un'opa più grande che ha creato tutto meravigliosamente. E quelle nuvole le ha create Dio. E ora se andate da mia figlia a chiedere chi è che ha creato le nuvole, probabilmente dirà Dio. Però già solo sentire dalla sua bocca la bambina di 2 anni che pronuncia il nome di Dio, che pronuncia il nome di Gesù, è tanto, tanto, tanto guadagno per me come padre, nella speranza e nella preghiera che un giorno possa scegliere di seguirlo al 100%. Come facciamo per inculcare? Parliamo, diamo l'esempio, magnifichiamo Dio, oh, che la nostra casa sia un luogo di adorazione. Quando vai in vacanza e ti trovi davanti a un bel tramonto, dillo ai tuoi figli: chi l'ha fatto quel tramonto? Quel dipinto costantemente cangiante e meraviglioso in tutte le sfumature, come nessun pittore potrà mai riprodurre. Dillo ai tuoi figli quanto Dio è magnifico, quanto Lui è meraviglioso. Fagli vedere la bellezza in un mondo dove tutti cercano di mostrare cose brutte che non vengono da Dio. Un'altra cosa che è molto importante per me, è che credo sia stato uno dei motivi per il quale a un certo punto io ho reso la mia vita a Gesù, è fare esperienza della potenza di Dio. Far fare esperienza della potenza di Dio. Sapete, quando sono cresciuto, io sono stato un adolescente che si è voluto ribellare alla Chiesa, a Dio, ai concetti che da sempre mi erano stati inculcati. Però, se qualcuno veniva a me a dirmi: ma tu credi in Dio? Io non potevo negare l'esistenza di Dio. Perché non avevo solo sentito parlare di Dio, avevo sperimentato Dio, la potenza di Dio. Ho dovuto ricordare un episodio nel lontano dicembre 1989, quando è stata liberata dal comunismo la Romania. Il dittatore Ceausescu è stato rimosso e sapete, per me è stato un evento straordinario. Avevo 8 anni, non sottovalutare mai quanto i tuoi figli possano essere sensibili alle tematiche anche meno probabili. Avevo solo 8 anni. Però come famiglia stavamo pregando per la liberazione dei paesi comunisti, non per un interesse politico, ma per il fatto che i paesi comunisti erano chiusi all'Evangelo. Non poteva entrare Bibbia in quei paesi se non attraverso un contrabbando illegale. E quindi Porte Aperte, che questa meravigliosa opera che è ancora attiva nel mondo musulmano e nei paesi dove c'è persecuzione, cercava di entrare, portare Bibbia ed evangelizzare un popolo che era impenetrabile a causa della cosiddetta cortina di ferro. E allora Porte Aperte ha chiesto a tutto il popolo di Dio di pregare incessantemente affinché il dominio della tirannia comunista crollasse. E noi l'abbiamo fatto. E io ho pregato veramente. E quando nel dicembre del 1989, mi emoziona ancora, noi abbiamo guardato il telegiornale e si vedeva questa folla immensa di persone che gioivano, di persone che inneggiavano la libertà ottenuta. Io non avevo nessuna cognizione, comprensione della geopolitica o delle manovre che ci potessero essere dietro. Io sapevo solo una cosa, che mi era stato chiesto di pregare. Io ho pregato e Dio ha risposto. Perché è così. Ora, voi potete venire a me con qualsiasi libro di storia e illustrarmi come la Romania sia stata liberata da una ribellione di una parte del popolo che si è elevato, ma per me, non mi toglierà mai nessuno questa certezza, è stata la risposta di Dio alle nostre preghiere affinché l'Evangelo entrasse in quella nazione. E quella oggi è una delle nazioni in Europa dove l'Evangelo è predominante, dove ci sono tra le chiese più grandi d'Europa. Perché? Perché mia madre e mio padre mi hanno coinvolto nel fare preghiere di fede, nell'osare e nello sperimentare la potenza di Dio. Questo non lo cancellerà mai nessuno dalla mente e dal cuore dei tuoi figli. Se li coinvolgi, anche perché la preghiera dei bambini è straordinaria, e io sono proprio convinto che il Signore, tra le tante preghiere che ha sentito proprio la mia, perché ero ignorante in materia, ma col cuore dicevo, non sapendo neanche dove fosse la Romania, Signore, libera il popolo rumeno affinché possa accogliere l'Evangelo. Ultimo, con questo concludiamo, avendo una chiara posizione, genitori, nonni, e anche tu che mi stai ascoltando, qualsiasi sia l'influenza, la cerchia di influenza per evangelizzare, le persone hanno bisogno di vedere una chiara posizione, mai come in questi tempi, mai, una chiara posizione. E sapete, forse tutti, questa bellissima affermazione che Giosuè fa davanti al popolo, ve la voglio leggere, quanto a me e alla mia famiglia serviremo il Signore. La conoscete tutti, no? Ce l'abbiamo nei quadretti di casa, appesa ai muri, no? Però forse a molti sfugge il contesto, perché Giosuè diventa proprio, cioè sta mettendo alla prova il popolo e sta dicendo: voi fate le vostre scelte, voi andate agli idoli. Questo sta dicendo, ve lo voglio leggere. Ma noi faremo una scelta diversa. Mi ricorda le parole di mamma e di papà che dicevano: in casa nostra non si dice questo, in casa nostra non si... Ma papà, mamma, il mio amico, in casa nostra no. Giosuè, quanto a me e alla mia famiglia, noi serviremo il Signore. Vi leggo il contesto. Giosuè 24. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete. Scegliete oggi chi volete servire. O gli dei dei vostri padri, o gli dei che i vostri padri servirono di là al fiume, o gli dei degli Amorei. Scegliete. C'è scelta, sta dicendo Giosuè. C'è tanta scelta. C'è un mondo di scelta. C'è un mondo di idoli. C'è un mondo di compromessi. C'è un mondo di peccati. Scegliete, fate la vostra scelta. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Padri, ascoltatemi molto bene, qui è un padre che parla. E dice: prima di tutto quanto a me, perché parte da te. E la parola di Dio è chiara nel fatto che i padri hanno un ruolo di responsabilità sulla famiglia, sul benessere della famiglia, sulla protezione della famiglia, ma anche sulla guida e direzione che la famiglia prende. E quindi la prima scelta riguarda te. Puoi affermare questa mattina: quanto a me, io servirò il Signore. E non a parole, perché a parole siamo tutti bravi. Ma sei disposto a dire questa affermazione non solo con le parole, ma con i fatti? Per dimostrarlo ai tuoi figli? E quando fuori piove ed è domenica mattina e dici, ah, piove fuori, ci bagniamo, rimaniamo in casa. O quando fuori c'è una bella giornata, dici, ah, ma c'è bel sole, andiamo in spiaggia. Beh, queste sono le scelte concrete che un padre fa per inculcare i propri figli a comprendere che cosa viene prima. Una bella giornata in spiaggia, al parco, sullo scivolo o in chiesa. E questa è solo una piccola scelta. Ma parte da te, parte da me, padri, parte da noi. E Giosuè dice, quanto a me, io ho già scelto, io servirò il Signore e scelgo anche per la mia famiglia. E fin quando ho la possibilità di influenzare i miei figli, e la scorsa domenica abbiamo parlato della finestra temporale che è molto breve, hai una manciata di anni, veramente, ti sfuggono. Sono 10-15 anni al massimo che tu hai di influenzare completamente le scelte dei tuoi figli e inculcare in maniera efficace quello che credi, quello per cui vivi, la tua scelta di servire il Signore. Dopodiché cominceranno a vederti come uno dei tanti che dice la sua. E allora questo è il tempo opportuno e non puoi farti sfuggire questo tempo perché non va di mezzo solo la tua vita, va di mezzo la vita dei tuoi figli e un domani potresti ritrovarti, come tanti genitori, purtroppo, oggi si ritrovano a piangere per la scelta dei propri figli. E non voglio dire che tutto dipende da te, ci sono lacrime che ci saranno comunque a prescindere da ogni sforzo che faremo. Però almeno quando quelle lacrime arriveranno, se dovranno arrivare, potremo dirci, beh, ho fatto il possibile, continuerò a farlo finché avrò respiro, perché amo i miei figli. Ma sarebbe terribile arrivare quel giorno di lacrime e renderti conto che per la tua apatia, per la tua superficialità, per la tua crisi spirituale, non ti sei dato l'occasione di influenzare al meglio i tuoi figli per le loro scelte future e soprattutto per la salvezza eterna. Evangelizza, evangelizziamo, discepoliamo e cominciamo dalle nostre case. La domanda è, non è se stai discepolando i tuoi figli, li stai discepolando, la domanda è a cosa li stai discepolando, a quale percorso spirituale li stai discepolando, a quale vita li stai discepolando. E so che sono parole pesanti, ma io parlo dall'urgenza che vedo in questi tempi, l'urgenza di padri che prendono una posizione come Giosuè. E Giosuè è stato un leader meraviglioso, è un padre straordinario. Vi ricordate, è l'unico con Caleb delle 12 spie che non scende a compromesso. Era difficile Giosuè da influenzare. Lui viveva Romani 12, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, gradita e perfetta volontà del Signore. Questo viveva Giosuè e l'ha dimostrato. Non ti fare influenzare, non sminuire il peccato. Ci sono tanti esempi che ancora potrei portare, però io ricordo papà quanto era fermo, rigido, nel momento in cui comprendeva che qualcuno di noi tre aveva mentito. La bugia, Gianluca, te lo ricordi? Non era ammessa. E se comprendeva che qualcuno aveva mentito, ci si sedeva e si rimaneva seduti fin quando non usciva la verità. E non in una maniera da tiranno, da comandante, da violento, da padre rabbioso, ma da uomo fermo nella propria posizione, nel far comprendere ai propri figli che la bugia non rappresenta Dio, che mentire è qualcosa di grave. E così vale per il sesso. Parlare di sesso in casa è fondamentale. E non vale il dire ma sono giovani, devono fare le loro esperienze, oppure ancora peggio, ma anch'io ho fatto i miei errori. Ma ti sei ravveduto di quegli errori? Perché io sì, pentito amaramente, e non voglio che i miei figli li facciano. Forse li faranno, ma mi darò occasione di presentare. Quanto dolore c'è nel seguire le vie che il maligno propone? Perché c'è tanta sofferenza, e allora i nostri figli lo devono sapere. E lo devono sapere da noi, perché dal mondo sapranno solo una verità: che il male e il peccato è innocuo, che non fa danno a nessuno ed è una bugia madornale. Allora noi possiamo inculcare i nostri figli facendo comprendere loro qual è la volontà di Dio per noi nella sessualità, qual è la volontà di Dio quando siamo esposti alle droghe. Finisco con questa illustrazione, perché è simpatica. Papà un giorno, sapete che portò in casa delle droghe? Ma quante ne sto dicendo ai miei genitori in queste due domeniche? Papà venne con un pezzo considerevole di hashish. Ora tutti lo sanno, anche in Mondovisione sta andando questa cosa, papà. Tirò fuori dalla tasca questo fazzoletto, chiamò noi figli e disse: guardate cosa c'ho. E aprì questo fazzoletto e noi vedemmo questa cosa, questo agglomerato, che non sapevamo bene che cosa fosse. E poi papà ha detto: sono andato a comprare droga per voi, ragazzi. No. Si è imbattuto in questo pezzo di droga che ha trovato per strada. E piuttosto che buttarlo subito, l'ha fatto dopo, ovviamente. L'ha portato a casa. Vedete, nella quotidianità, per via, quando te ne starai seduto, quando camminerai, papà ha portato questo pezzo e l'ha mostrato a noi. Sapete cos'è questo? No. Questa è droga. Questo è ciò che prendono le persone che vogliono evadere dalla realtà. È nociva, fa male. Non cadete mai nel tranello di assumere questa cosa. Credete che io non abbia fumato spinelli? Altra confessione. Io li ho fumati, con la piena consapevolezza di che cosa fossero, perché avevo già visto l'hashish in casa. Ma c'era qualcosa dentro di me che forse può essere chiamata coscienza, che ogni qualvolta facevo quella scelta o altre scelte mi diceva: non è la cosa giusta. Non è la cosa giusta, non è la scelta migliore. E quando poi passava il momento bello che lo spinello dava o che altre esperienze negative davano, e quell'amarezza, quel vuoto, no, che conosciamo tutti, che è la conseguenza del peccato, subentrava, per me era molto chiaro perché c'era lì. Perché avevo scelto male. E perché sapevo che avevo scelto male? Perché mio padre mi aveva illustrato e mi aveva mostrato la differenza tra il male e il bene. È stato un Giona. Sapete che Giona è andato nella città di Ninive e si dice che Ninive, Dio ha avuto pietà per quella città perché non distingueva il bene dal male. I nostri figli devono distinguere molto bene il bene dal male, per non essere soccorsi in extremis, ma per fare in modo che loro stessi non possano arrivare al ravvedimento. E quindi io un giorno ho detto: io queste cose non le voglio, io voglio vita piena. Dove troverò la vita piena? Dove troverò la gioia completa? Dov'è? Chi è che mi darà questa risposta? E io sapevo già dentro di me qual era la scelta da fare. E alla prima occasione, dove si è creato l'opportunità ideale, io sono andato avanti ad un appello. Ho detto al Signore: a te arrendo la mia vita, tu sei la scelta migliore. E quella è stata la scelta migliore che io abbia mai fatto. E di tante scelte mi sono pentito e mi pento, ma di questa scelta no. E la mia preghiera è che i miei figli e i tuoi figli possano arrivare a quel giorno con cognizione di causa, a distinguere il bene dal male e a scegliere il bene. e a ereditare ogni benedizione che Dio ha da dare. Perdonatemi se mi sono prolungato, ma mi sta tanto a cuore tutto questo e mi stanno a cuore le famiglie della nostra Chiesa. Ed è per questo che vorrei chiedere ai responsabili dei bambini di far venire i bambini in sala. E quello che chiederò a ciascun nucleo familiare di fermarsi un attimino con la propria famiglia, con i propri figli, se ci sono i nonni, con i propri nonni, con i nuclei familiari che ci sono qui, per pregare. Pregherà il Padre. Pregherà il Padre per benedire la propria famiglia. E quindi vogliamo stare insieme. Ovviamente se non c'è il Padre, lo può fare la Madre. E se non ci sono i tuoi figli e sei qui solo, senza familiari stretti, beh, possiamo comunque creare dei gruppi di preghiera. E voglio invitare tutti a pregare per i nostri figli, per le famiglie della nostra Chiesa e per la benedizione di Dio nelle generazioni che ci stanno davanti. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo mobilitarci, quindi le famiglie si possono mettere in gruppi per pregare. E chi sa già che non ha figli, non ha un gruppo familiare, può unirsi ad altri in preghiera, in gruppi di 4-5 persone, più o meno il numero delle famiglie, dei componenti di una famiglia. Vogliamo fare un applauso ai bambini che ci hanno raggiunto. Vedete l'entusiasmo che la Chiesa ha del fatto che siete qui. Che bello avervi. Bambini, ci siete? Quello che faremo adesso, bimbi, ora lo spiego anche a voi, è stare con mamma, papà, con i nostri familiari per pregare insieme, ok? Perché il Signore ama l'unità della famiglia e ama la vostra famiglia, la tua famiglia, la famiglia di cui fai parte. Dio la ama tanto e vuole benedirla. E quindi io voglio pregare per tutti voi e poi lascerò ai padri anche fare una preghiera per le proprie famiglie. Quindi permettetemi di fare questa preghiera per ogni nucleo familiare. Grazie Padre per questo meraviglioso mormorio, questa agitazione in sala, perché ci sono i bambini, i nostri figli qui presenti, e noi li benediciamo Padre, e noi vogliamo pregarti affinché tu possa darci modo di raggiungere i loro cuori con l'amore tuo, che loro possano scoprire l'amore che tu hai per loro e che noi possiamo essere buoni rappresentanti di questo amore nelle nostre famiglie. Io benedico ogni padre e ogni madre qui presente, e io benedico ogni nucleo familiare, anche quelli che sono magari quei nuclei che sono divisi e una parte non è qui. Padre, vuoi tu riunire e vuoi tu portare completezza nelle famiglie con la presenza, la grazia tua e l'intervento tuo. Grazie Gesù perché sei qui, e io ti prego che in questo tempo di preghiera tu possa sigillare un tempo nuovo davanti alle nostre famiglie, un tempo di crescita, un tempo di fede, un tempo di preghiera, un tempo dove magnifichiamo il tuo nome e i tuoi attributi e vediamo i nostri figli crescere innamorati di te. Grazie Gesù. Amen. Amen. Padri, pregate per i nuclei familiari, gruppetti, viviamo un tempo di preghiera per le famiglie.